Quasi 200 km di fuga e bravo Michele Scarponi. Adesso qualcuno dirà che è un'impresa ad altri tempi, da leoni delle Fiandre o aquile di Toledo. Invece siamo nel maggio 2009, in un Giro d'Italia che ogni giorno per fortuna si diverte a tirar fuori qualcosa dal cilindro. Questa volta i capitani stanno un passo indietro, anzi addirittura due, come Armstrong, che perde un'altra trentina di secondi dal gruppo Maglia Rosa. Tocca invece ai comprimari guadagnare la scena, i cosiddetti eroi di giornata. E Michele Scarponi, con questa fuga tra valli e casette di marzapane, è perfetto. La faccia furba, un passato maledetto da riscattare, 2 anni di squalifica per il coinvolgimento nell'Operazione Puerto, questo marchigiano di 29 anni esce con coraggio dal gruppo, in un giorno che i grandi, bontà loro, lo concedono. E Scarponi va, e lo fa con un altro precario del pedale, il bielorusso Kirienka, che proprio sul più bello, nella picchiata verso il traguardo, prima fora e poi si perde per crampi. Così Scarponi se la deve sfangare da solo. 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto, un'agonia con quei lupi del gruppo che se ne fregano della fuga ad altri tempi. E invece Michele ce la fa, e siccome siamo al giro del centenario, questa di Scarponi la chiameremo fuga del secolo. Un giorno in paradiso per un corridore che, come tanti, viene dall'inferno del doping. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore.